kein Recht auf sie stolz zu sein, aber ich habe sie immerhin hier gepusht, also darf ich es doch ein bisschen. Ich bedanke mich, es war glänzend. Ja, es ist ja ganz nett hier, das lässt sich aushalten. Ne? Dankeschön. Ecco, la professoressa Zarri insegna storia moderna all'Università di Firenze e ha portato il suo contributo in tutti questi anni a queste tematiche, direi in tutti i campi, ecco, del nostro convegno sulle strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma, ha toccato i temi di natura beneficiale, ha toccato soprattutto il problema della spiritualità femminile e nei suoi rapporti appunto con la politica, il problema delle consigliere dei principi alla vigilia della riforma e appunto tutti conosciamo i suoi studi sulla sugli ordini religiosi femminili sui monasteri dopo la riforma tridentina. Abbiamo chiesto a lei di affrontare uno dei nodi tremendi del tridentino, ecco, il tema del matrimonio. La parola. La necessità di regolamentare la materia matrimoniale era parsa particolarmente urgente ai padri conciliari riuniti a Trento, sia per motivi dottrinali che politico-sociali. Quando nel 1547 cominciarono a discutere a Bologna su questo punto, la desacramentalizzazione del matrimonio nei paesi della Riforma era ormai un fatto compiuto, ma erano anche avviati provvedimenti che introducevano importanti mutamenti nella celebrazione del matrimonio. Si richiedeva con insistenza da parte degli Stati di dare pubblicità a un istituto che restava in gran parte un fatto privato, celebrato e consumato all'interno delle famiglie o tra le coppie, con riti stabiliti da norme consuetudinarie, affidati alla pratica e non soggetti ad alcuna autorità. Bisogna partire dalla constatazione, ormai provata dagli studi, che nonostante le prescrizioni della Chiesa, il Lateranense IV nel 1215 aveva già obbligato a fare i bandi, quindi a dare pubblicizzazione al matrimonio, però fino a tutto il secolo XV prevale il matrimonio aformale, giuridicamente riconosciuto perché il diritto canonico aveva sanzionato la dottrina della consensualità. Talvolta pubblicizzato dal notaio, come avveniva nella società mercantile fiorentina, raramente era accompagnato dalla benedizione nuziale, neppure contenuta in uno dei più diffusi manuali per i parroci del secolo XVI, il Manipulus Curatorum. Frequenti erano poi i matrimoni clandestini, quelli cioè contratti senza la presenza dei testimoni, oppure da minorenni senza il consenso dei genitori. C'è diversità ovviamente tra le classi sociali, mentre i matrimoni confermati con atti notarili sono propri dei ceti aristocratici o borghesi, i matrimoni aformali costituiscono la stragrande maggioranza. C'è anche difficoltà a distinguere i matrimoni validamente contratti dal concubinato, anche perché la dottrina aveva sanzionato il matrimonio presunto, quello cioè che riconosceva validità di matrimonio allo scambio dei consensi accompagnato dalla coabitazione more usorio e con fama di onestà. Il problema di una regolamentazione della prassi matrimoniale era esigita anche dalla difficoltà di distinguere sul piano formale una promessa di matrimonio, sponsali de futuro, da un matrimonio concluso, sponsali de presente, atti e momenti diversi della celebrazione che differivano soltanto per un'espressione verbale. Le conseguenze sociali di questa confusa situazione sono note e del resto confermate anche dallo stesso Concilio di Trento, sia nelle dichiarazioni di molti padri che nelle liste di abusi, bigamia, illegittimità dei figli, mésalliance. Dal secolo XV si fa sempre più impellente da parte degli Stati la necessità di sancire leggi in materia matrimoniale e aumenta la conflittualità con la Chiesa, che detiene il potere giurisdizionale nelle cause concernenti il sacramento del matrimonio. Nell'introduzione al volume La Conta delle Anime, Paolo Prodi esprime bene le ragioni politiche della necessità di una riforma dell'istituto matrimoniale tra Medioevo e Prima Età Moderna. Cito quindi da lui questo passo. Nel Medioevo, dal primo diritto feudale, solo il matrimonio dei grandi, dei potenti, sa rilievo pubblico ed è soggetto a considerazioni formali, garanzie e controlli nei confronti dell'intero corpo sociale, per una definizione del nucleo familiare che ha in sé una valenza politica. Il matrimonio di coloro che non posseggono feudi e giurisdizioni rimane un fatto privato, regolato nei più diversi modi, secondo le consuetudini e gli statuti cittadini. L'evoluzione politico-economica dei secoli XV e XVI esige una sistemazione della materia matrimoniale e familiare nel quadro dei nuovi diritti statali, proprio nella misura in cui alla famiglia è stato tolto il ruolo politico che viene concentrato soltanto nella persona e nella famiglia del principe. L'esigenza della pubblicizzazione era già stata fatta propria dai paesi protestanti con la riforma del rito matrimoniale, che imponeva la celebrazione delle nozze di fronte a testimoni e dava notevole autorità ai ministri del culto, rendendoli partecipi dell'azione liturgica in prima persona. Ascoltato il consenso degli sposi, spettava infatti al rappresentante della Chiesa pronunciare le parole della coniunzio, sia pure con una formula diversa da quella che verrà prescritta dalla Chiesa tridentina. Fin dal 1229 Lutero aveva composto un opuscolo per gli sponsali ad uso dei parroci indotti, che pur non essendo imposto come normativo, tendeva a introdurre un rituale comune fornendo una formula di sponsali riformata. Anche la Chiesa anglicana assunse per tempo misure regolatrici del matrimonio. La forma di solennizzazione del matrimonio compare nel Book of Common Prayer, stampato per la prima volta nel 1549 sotto il regno di Edoardo II e confermato nel 1559 sotto il regno di Elisabetta. E la Reformation of the Ecclesiastical Laws of England del 1552 prescrive l'obbligatorietà del nuovo rituale e sancisce un'articolata disciplina della materia matrimoniale. Il problema della conflittualità fra Stato e Chiesa in materia di giurisdizione era stato radicalmente risolto nei paesi della Riforma a favore dello Stato, con la negazione della sacramentalità del matrimonio. Mentre alla frequente prassi dei matrimoni contratti senza l'autorizzazione paterna si era posto rimedio invalidandoli. I riformatori avevano anche messo in discussione l'indissolubilità del matrimonio, riconoscendo la possibilità di scioglimento del vincolo in caso di adulterio e in altre evenienze più o meno gravi. La discussione tridentina sul sacramento del matrimonio si presentava urgente e complessa, quindi, sia sul piano della fede che su quello del diritto. Ma un'altra profonda motivazione rendeva difficile regolamentare una realtà sacramentale strettamente unita, congiunta con la vita sociale. La conciliazione fra la dottrina teologica e canonica del matrimonio e la concezione antropologico-sociale del matrimonio stesso, che vedeva nell'unione degli sposi soprattutto un'alleanza di famiglie, uno scambio di beni, e riteneva pertanto necessario regolarlo secondo strategie familiari dettate dall'autorità paterna. Per quanto il problema dogmatico più importante da risolvere fosse quello della indissolubilità del matrimonio, la discussione conciliare fu dominata fin dal principio dal problema dei matrimoni clandestini. Oltre che per motivi politici e sociali, la regolamentazione dell'istituto matrimoniale si presentava urgente anche per motivi interni alla Chiesa. Lo esigevano istanze pastorali, perché un legame contratto pubblicamente dopo un primo matrimonio clandestino poneva i contraenti in stato di peccato permanente, e anche perché le corti ecclesiastiche chiamate a giudicare sui casi di matrimonio clandestino non potevano per lo più procedere per mancanza di prove. Per la maggior parte convinti della necessità di provvedere a questi inconvenienti, i padri conciliari si trovarono di fronte a difficoltà dottrinali di non facile soluzione, tanto che quasi a conclusione dell'assemblea una parte di loro propose di demandare al Papa la decisione sul decreto di riforma del matrimonio. E anche la soluzione finale adottata lasciò molti insoddisfatti. La votazione del Tamezzi, nome con cui venne designato il documento di riforma, vide contrario un quarto dell'assemblea, caso unico in tutto il concilio. L'andamento della discussione conciliare è nota non solo per i numerosi studi di Iedin, ma anche per saggi specifici come quello di Lettmann sui matrimoni clandestini e quello di André Duval sui sacramenti al Concilio di Trento. Naturalmente cito solo i più importanti. Ma ai fini del nostro seminario ho ritenuto opportuno ripercorrere alcuni aspetti del dibattito tridentino sul matrimonio, tralasciando il problema dell'indissolubilità e fermando l'attenzione sui matrimoni clandestini e sulla competenza ecclesiastica in materia matrimoniale. La discussione sul matrimonio iniziò a Bologna nell'agosto del 1547 e, per quanto non approdasse, come negli altri casi, a decisioni sanzionate dal voto, fece emergere le più complesse problematiche e propose soluzioni possibili che si prefigurarono di fatto come risolutrici nella fase finale del dibattito. Il lavoro preparatorio era consistito nella presentazione di una lista di abusi e una di auctoritates in favore e contro gli articoli proposti. Un elenco di 6 canoni, formulati sulle asserzioni dei riformatori, era stata preparata dal Massarelli, segretario del Concilio, ma il Cardinal del Monte, legato del Concilio, propose di premettere all'esame di questi la discussione di 2 articoli, il primo dei quali riguardava il matrimonio clandestino e il secondo l'indissolubilità. Il primo articolo, proponendo sulla invalidità dei matrimoni clandestini, dava per scontato che tutti i padri fossero d'accordo sulla teoria del consenso come elemento costitutivo del vincolo, e presupponeva che vi fosse coincidenza fra contratto, posto in essere dal consenso, e sacramento. In verità, le posizioni dei teologi erano divise sulla realtà sacramentale, fatta salva la convinzione che conferiva la grazia. Si discuteva su ministro, materia e forma del sacramento. Ad esempio, l'autorevole Melchior Cano asseriva che il sacerdote era il ministro del matrimonio e che la materia era il consenso, ed era propenso a negare la sacramentalità del matrimonio clandestino. Per lui è sacramento solo il matrimonio solenne. Sic igitur, tamezzi matrimonium sacramentum est, non idem tamen coniugium quodcunque venerari cogimur, sed id quod formam sacram habeat, et avero ecclesiae ministro consecratum sit. Nega che gli sponsali seguiti dalla copula, riconosciuti come matrimoni dai canonisti, siano sacramento. Atque matrimonium non alnis quandoque nutibus contraitur quam carnali copula. Cum enim post sponsalia, sponsus et sponsa, affectu maritali coeunt, patentur omnes et jurisperiti et teologi verum matrimonium confici. Ad carnis commissionem nove legis proprie sacramentum dicere absurdum est. In massima parte, tuttavia, i padri conciliari erano convinti che i matrimoni informali o senza il consenso dei genitori fossero veri errati, ma convenisse irritarli perché le proibizioni fino allora esistenti non avevano prodotto l'effetto di diminuirli. Una preoccupazione pastorale cui il Concilio doveva necessariamente rispondere poneva però un problema di massima portata. Irritare i matrimoni clandestini, dichiarando invalido il contratto, significava intervenire con una legge positiva sul sacramento, e ciò non rientrava nei poteri della Chiesa. Su questo punto, su cui ritorneremo, si concentrerà ancora ampiamente l'attenzione dei padri conciliari nell'ultima fase del concilio. La discussione che seguì la presentazione dei 6 canoni preparati dal Massarelli il 9 settembre fece emergere problemi, ma indicò anche una via per una possibile soluzione. Bisogna notare che in questa prima fase del dibattito non era compresa tra i canoni l'anatema relativo alle cause matrimoniali, che comparirà soltanto nell'ultimo periodo tridentino. Circa i matrimoni clandestini, si discusse soprattutto sulla loro sacramentalità, che pareva negata da un'antichissima fonte, lo Pseudo Evaristo, che proprio nell'età del Concilio era stata riproposta in una forma emendata rispetto alla redazione grazianea con cui era prima conosciuta. Emendazione che dava maggiore autorità alla fonte, ricollegandola alla tradizione apostolica. Questo Evaristo sarebbe vissuto nel primo secolo. C'era inoltre la forte influenza di Gropper del Concilio Coloniense celebrato nel 1536 e pubblicato in Italia dal Ghiberti nel 1541, che seguendo Evaristo poneva in dubbio tale sacramentalità. Anche in base a queste considerazioni venne da qualcuno sollevato l'interrogativo se questo problema dovesse essere discusso tra i canoni dogmatici o i decreti di riforma. C'era in più una motivazione pratica che faceva propendere per l'esclusione del canone dai decreti dogmatici e venne espressa proprio dal Cardinal Del Monte, che mise in guardia dal confermare dogmaticamente i matrimoni clandestini per non far credere che fossero concessi e per non dare occasione di peccare, invitando a contrarli. Mentre restava assodato per la maggior parte dei padri che il matrimonio clandestino era valido, il vescovo di Chiron fece fare un passo avanti alla discussione, esaminando la questione sotto il profilo dello ius conditum e dello ius condendi. Mentre i matrimoni già contratti valgono, dice, e i parenti non possono irritarli, la Chiesa deve però proibirli in futuro, affermando che non sono validi se non fatti alla presenza di testimoni o della Chiesa. Si profilava una delle vie poi adottate di imporre una precisa forma di celebrazione, ma non era in questo modo risolto il problema della libertà del matrimonio e del potere della Chiesa sul sacramento. Una possibile soluzione circa l'irritazione dei matrimoni clandestini si profilò con l'intervento del cardinale Aquensis Petrus Vorstius, che propose di non intervenire sul contratto ma sulle persone dei contraenti, inabilitandoli a contrarre. L'idea di legittimare le persone venne ripresa insieme a quella di stabilire una forma precisa di celebrazione e per questa via, anche se non poté giungere a esprimere voti, il periodo bolognese del Concilio Tridentino prefigurò alcune soluzioni che sarebbero state adottate negli anni successivi. Mentre si discutevano i canoni, i padri esaminarono contemporaneamente gli abusi circa i matrimoni e vagliarono la proposta di alcuni rimedi volti a proibire quelli clandestini. A riprova della volontà di arrivare in tutti i modi a una riforma, questi rimedi, che non vennero però mantenuti nella redazione finale del decreto, appaiono molto severi, giungendo a proporre la diseredazione e la perdita della dote per giovani inferiori a 25 anni e per ragazze inferiori a 20 che si sposassero senza consenso paterno. La discussione sul matrimonio non venne ripresa nel secondo periodo conciliare, anche se negli anni 50 vennero pubblicati i testi teologici sull'argomento di Caterino, Dolfino e Tapper, decano della Facoltà Teologica di Lovanio. Alla riapertura dei lavori del Concilio si ricominciò a parlare del matrimonio nel febbraio del 63, quando vennero proposti alcuni articoli da esaminare dai teologi minori. Il matrimonio clandestino figurava ancora tra i canoni dogmatici, ma con una formulazione che ricalcava sostanzialmente l'articolo di Del Monte di 15 anni prima, aggiungeva però che la Chiesa avrebbe provveduto a diritarli. Il canone presentato all'esame dei padri il 20 luglio dello stesso anno si presentava invece modificato, facendo esplicito riferimento al libero consenso dei contraenti e tacendo della futura eritazione della Chiesa, cosa che era riservata a un più ampio e distinto decreto di riforma che dichiarava nulla i matrimoni che da allora in poi non si fossero celebrati alla presenza di testimoni e, con il consenso dei genitori, per i giovani inferiori a 18 anni e le ragazze inferiori a 16. Per la prima volta compareva tra i canoni anche un articolo relativo alla competenza dei giudici ecclesiastici sulle cause matrimoniali. Non si possono ovviamente qui seguire tutte le fasi della discussione, basterà ricordare che vennero tenute 4 congregazioni e discussi 4 diversi schemi, di volta in volta emendati. Potrete poi in seguito vederne le variazioni nella collazione che ho preparato, immaginavo un seminario più ristretto. Sottolineerò soltanto che fin dal secondo schema l'articolo dei matrimoni clandestini non compare più tra i canoni dogmatici, mentre vi figura quello sulle competenze dei giudici ecclesiastici che rimarrà invariato fino al testo definitivo. La dottrina canonica sulla validità dei matrimoni clandestini viene tuttavia ribadita e inglobata nella prima parte del decreto di riforma, che già da questa stesura inizia con la parola tamezzi. Gli schemi successivi del decreto tengono conto degli elementi emersi nel dibattito, tanto sotto il profilo dottrinale quanto sotto il profilo disciplinare, e si arricchiscono progressivamente nella parte relativa alla forma da imporsi nella celebrazione del matrimonio. Per quanto concerne la discussione dottrinale, vengono ripresi, come ho detto prima, molti degli aspetti già emersi nel periodo bolognese: la sacramentalità dei matrimoni clandestini, la competenza ecclesiastica sul matrimonio dei cristiani. Ma il problema di maggior portata è costituito dal rapporto tra contratto e sacramento. L'opinione che la Chiesa non possa invalidare il matrimonio clandestino è basato sulla teoria della inseparabilità tra contratto e sacramento. Questa inseparabilità è però contraddetta dall'opinione di molti teologi, che considerano vero matrimonio ma non sacramento, ad esempio, quello contratto per procura. È per questa via che si comincia a considerare ammissibile dal punto di vista giuridico l'esercizio del diritto di invalidare i matrimoni. Si concorda però sull'opportunità che la forma del decreto debba colpire le persone, dichiarandole inabili a stipulare il contratto, e non debba invalidare il matrimonio già concluso, forma recepita nel secondo schema di riforma. Un ulteriore motivo di conflitto era costituito, come si è detto, dal riconoscimento di sacramentalità del matrimonio clandestino, che sarebbe stata contraddetta dalla decretale di Evaristo a cui ho accennato. Per recepire le obiezioni dei padri che seguivano Evaristo e si opponevano alla secca affermazione del decreto Tamezzi che i matrimoni clandestini erano rata et vera, nel terzo schema venne introdotto l'inciso «quam diu ecclesia e arata esse voluit». Questo inciso non significa fin tanto che la Chiesa ora non li irriterà, ma vuole dire piuttosto che in certi periodi della storia della Chiesa i matrimoni clandestini hanno potuto essere considerati e trattati come nulli, come ad esempio, secondo quanto pensavano molti padri conciliari, nel primo millennio, dal tempo di Evaristo fino a Clemente III. Ma l'aspetto ideologicamente più significativo dell'inciso, come fa notare André Duval, è l'affermazione del potere della Chiesa di disciplinare il matrimonio con il diritto positivo. Vuol dire, in effetti, che la validità dei matrimoni non attiene esclusivamente alla natura delle cose, cioè alla libertà del consenso, ma anche al potere della Chiesa, alle condizioni che ella pone per la validità di un consenso. Nel quarto schema, corrispondente a quello finale, l'inciso sarà espresso in forma negativa, quam dio ecclesia ea irrita non fecit, ma conserverà intatto il suo significato. Le variazioni che vengono apportate ai decreti di riforma nella fase finale dell'elaborazione riguardano soprattutto le disposizioni della nuova normativa. Dal punto di vista dottrinale, la parte più interessante della discussione tridentina era quella relativa al matrimonio clandestino e aveva messo in luce, senza prendere posizione tuttavia, dei nodi teorici, uno dei nodi teorici relativi al matrimonio più importanti, cioè la separabilità tra il contratto e il sacramento. Si era anche ribadito il potere della Chiesa in materia matrimoniale. Non soltanto il canone 12 confermava la competenza dei giudici ecclesiastici sulle cause di matrimonio, ma i canoni 3 e 4 confermavano il potere di dispensare dai gradi di consanguineità e di stabilire impedimenti dirimenti. Il canone undicesimo, infine, dichiarava che la Chiesa può stabilire giorni proibiti in cui celebrare le nozze. Non può sfuggire che queste dichiarazioni, volte a rispondere a precise accuse dei riformatori, afferiscono di più al campo del diritto che a quello dogmatico, ma assumono appunto il significato della volontà ferma della Chiesa di non rinunciare al controllo di un istituto così importante per la vita sociale. Se i padri avevano dovuto rinunciare per dissensi interni che riguardavano la dottrina alla condanna dogmatica dei matrimoni clandestini, contro i quali restava bensì un anatema straordinariamente imposto in un decreto di riforma, essi non avevano obiezioni sulla competenza della Chiesa, né si posero il problema della opportunità di dichiarare dogmatiche prassi ecclesiastiche risultate dalla elaborazione della dottrina canonistica dei secoli XII e XIII. Nei decreti tridentini, dunque, la competenza della Chiesa non viene solo confermata, ma anche ampliata rispetto al periodo precedente. Tuttavia, ciò che conferisce alla Chiesa un potere sul matrimonio fino allora mai raggiunto è la trasformazione dell'istituto matrimoniale da consensuale a solenne. L'aspetto normativo più importante del decreto Tamezzi riguarda infatti la modalità stabilita per la cerimonia nuziale, considerata essenziale per la validità del vincolo. Istanze di pubblicizzazione e di controllo vengono raggiunte stabilendo le coordinate spaziali entro cui deve concludersi l'atto, la parrocchia, e assegnando a un preciso rappresentante della Chiesa, il parroco, la funzione di testimone e custode del consenso scambiato tra i coniugi. Come noto, per disposizione tridentina, il parroco deve denunciare per 3 giorni festivi consecutivi l'intenzione di 2 giovani di congiungersi in matrimonio, per consentire a chi ne ha conoscenza di manifestare eventuali impedimenti. Deve assistere alla cerimonia, seguendo un preciso rituale. Deve infine registrare i nomi degli sposi e testimoni in un libro apposito da conservarsi presso di lui. Nel caso di persone senza fissa dimora, il ruolo del parroco diventa sempre più attivo, in quanto deve assumere informazioni e riferirle al vescovo e celebrare il matrimonio solo dopo l'autorizzazione. Il rito della celebrazione delle nozze enfatizza il ruolo del sacerdote nell'azione sacra. Dopo aver interrogato gli sposi ed essersi accertati del loro consenso, egli deve pronunciare la formula ego vos in matrimonium coniungo. A differenza del rito anglicano e luterano, dove il ministro conclude l'interrogazione degli sposi e lo scambio degli anelli con la benedizione augurale «ciò che Dio ha unito, l'uomo non separi», il sacerdote cattolico partecipa attivamente all'azione sacra. La formula ego vos in matrimonium coniungo doveva stare particolarmente a cuore ai padri conciliari che la inserirono all'interno del decreto di riforma, compiendo un'anomalia rispetto agli altri documenti conciliari. L'inserimento della formula rappresentava infatti l'inclusione di una norma liturgica in un testo di carattere diverso, che rappresenta un unicum tra i documenti approvati a Trento. Segno della particolare attenzione che si voleva volgere al processo di uniformazione dei riti, anche se il decreto stesso ammette che si possano continuare a usare cerimonie e parole diverse, consacrate dalla consuetudine o da ritualità particolari. Un altro segno dell'attenzione dei padri riuniti a Trento alla riforma del matrimonio e all'ormai acquisita necessità di intervenire autoritativamente in questa materia è la particolare urgenza con cui venne prescritta l'applicazione della norma conciliare. Il decreto doveva infatti avere effetto a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione. Non c'è dubbio che dopo il tridentino la scena del matrimonio cambia, Da atto privato concluso all'interno della casa diviene cerimonia pubblica svolta in chiesa, da azione prettamente laicale diviene clericale, da insieme di gesti a carattere quasi esclusivamente profano assume carattere sacro. Le nuove norme di celebrazione del matrimonio hanno come effetto immediato la clericalizzazione e la sacralizzazione dell'atto. Quali elementi di modernizzazione riconoscere in questo? Innanzitutto l'elemento della razionalizzazione. Come si è detto, la pubblicizzazione e il riordino dell'istituto matrimoniale rispondeva a esigenza diffusa di cui si facevano interpreti e promotori con propri interventi legislativi gli stati stessi. Non era estranea a questa esigenza il processo di trasformazione in atto nella famiglia. La progressiva nuclearizzazione della struttura familiare rendeva sempre più difficile provare i legami parentali e affidarne la memoria ai vicini. In questa situazione di fatto, la razionalizzazione tridentina doveva avvenire soprattutto in due direzioni. La definizione giuridicamente chiara del nucleo familiare, che attenuasse anche il crescente problema dell'illegittimità, ottenuta attraverso la repressione dei due istituti che maggiormente vi si opponevano, il matrimonio clandestino e il concubinato. Secondo aspetto della razionalizzazione è la ricostruzione della memoria storica familiare che affidasse a documenti scritti, i libri parrocchiali, la testimonianza di quei legami parentali che il progressivo restringimento della famiglia patriarcale e la maggiore mobilità rendeva labili e incerti. Oltre a rispondere a istanze di razionalizzazione, i provvedimenti tridentini rispondono a intenti di disciplinamento. Il controllo degli impedimenti di consanguinità e di affinità, pur ridefiniti rispetto al passato, restano gli strumenti privilegiati per normare la vita coniugale e sociale, ma anche il controllo della popolazione marginale, quei vagabondi senza fissa dimora, non necessariamente poveri, che erano spesso all'origine di legami provvisori o di matrimoni ripetuti, divengono oggetto di speciale attenzione. Sul piano della disciplina dei comportamenti mi pare particolarmente significativo l'intervento della Chiesa sul concubinaggio, cui è dedicato il capitolo 8 del decreto Tamezzi. Pur nella situazione estremamente confusa dell'istituto matrimoniale, che prevedeva, come si è detto prima, un gran numero di coppie irregolari, il concubinaggio era pratica sociale che non poteva in nessun modo iscriversi nell'ambito dei comportamenti ritenuti leciti. Ad un costume di vita amore usorio non corrispondeva la volontà o la possibilità di pervenire al vincolo matrimoniale. Il concubinaggio doveva dunque venire represso. Per questi motivi il decreto tridentino prevede la scomunica per i concubinari che dopo ammonizione dell'ordinario non hanno provveduto a regolarizzare la loro posizione, mentre per le donne stabilisce una punizione proporzionale alla colpa e il bando dalla città e diocesi. Le donne che vivono in condizione di concubinaggio vengono così assimilate alle meretrici per cui hanno previste le stesse pene. Questa azione di disciplinamento viene svolta principalmente dal parroco, figura anch'essa trasformata in senso professionale dalla nuova disciplina tridentina e da una parallela più vasta azione che potremmo definire di pastorale della famiglia, sostenuta anche da religiosi e predicatori. L'attenzione della Chiesa nei confronti della famiglia ha un riscontro immediato nel periodo post-conciliare, nella produzione di un'imponente trattatistica relativa all'economica cristiana. Non è qui possibile nemmeno accennare a questo argomento, lo si è voluto richiamare come ulteriore prova dell'interesse della Chiesa a controllare e normare l'istituto familiare fino all'età tridentina, prerogativa di dominio laicale, ambito privilegiato dei compiti e della responsabilità del padre di famiglia. Oltre al parroco e ai religiosi, il disciplinamento della famiglia spetta agli ordinari diocesani, cui il canone 20 del decreto di riforma della 24esima sessione tridentina riserva l'esame e la giurisdizione delle cause matrimoniali. Il cointeressamento della Chiesa a razionalizzare e disciplinare l'istituto matrimoniale si estende dunque a tutti i livelli della gerarchia. Al processo di disciplinamento si accompagna il processo di sacralizzazione del matrimonio. Non potrò che accennare ad un tema che mi sembra dovrebbe essere oggetto di studio. Non si comprenderà la valenza culturale e ideologica del matrimonio solenne tridentino se non si tiene presente quel carattere familiare e privato consumato nell'ambito della casa senza la mediazione ecclesiastica che rivestiva fino allora lo scambio del consenso nuziale. La sacramentalità del matrimonio non si era trasformata, nonostante le prescrizioni ecclesiastiche, nella consapevolezza del valore sacro della coppia. Naturalmente la sacramentalità del matrimonio è una proclamazione della Terenzio V, quindi nel secolo XIII, così pure esistevano i rituali di celebrazione del matrimonio in faccia al chiesa, ma per l'appunto non venivano applicati. Perciò appunto la mia opinione è che questo aspetto della sacralità della coppia non fosse sviluppato prima di Trento. Nell'età medievale il matrimonio non si identificava soltanto in una specifica condizione socio-antropologica, ma corrispondeva anche alla grande metafora della vita cristiana. Semplici coniugati, oppure vescovi, chierici, religiosi, talvolta principi, come il Doge di Venezia, erano legati da un vincolo sponsale con una donna, per lo più, o con Cristo, la Chiesa, la Repubblica. La sacralità del matrimonio appariva in tutta la sua significazione nel matrimonio mistico e veniva espressa in cerimonie pubbliche come la professione solenne delle religiose, il possesso della Chiesa da parte di un vescovo, lo sposalizio del mare del Doge. Tutte queste cerimonie, accompagnate da una diffusa iconografia del matrimonio mistico, contribuivano da un lato a elevare la condizione matrimoniale, considerato stato di vita inferiore al celibato ecclesiastico, a condizione privilegiata, che accomunava chierici e laici, ma contribuiva anche a svalutare la sacralità propria del matrimonio cristiano, della coppia. È solo con il rituale solenne tridentino che la coppia entra definitivamente in un circuito di significazione sacra. Nonostante i canoni tridentini sul matrimonio ribadiscano contro i riformatori la superiorità dello stato religioso su quello matrimoniale, la Chiesa ha ormai conferito alla coppia e alla famiglia un'impronta religiosa capace di trasmettere all'esterno il carattere sacramentale del vincolo coniugale. Clericalizzazione e sacralizzazione del matrimonio tridentino sono due facce dell'istituto matrimoniale nella prima età moderna e mi sembrano rientrare nel processo di disciplinamento sopra delineato. Ma c'è un altro elemento centrale di modernizzazione che scaturisce dalla normativa tridentina, il processo di individualizzazione legato alla difesa della libertà del matrimonio e alla conferma della teoria del consenso. Di fronte alla forte pressione sociale favorevole al riconoscimento dell'autorità paterna come agente primario nella formazione del vincolo matrimoniale, l'assemblea conciliare sceglie la via della libertà della scelta, da difendersi anche con l'intervento e la garanzia del vescovo. Coloro che sono obbligati a contrarre matrimonio contro volontà possono ricorrere al vescovo. È possibile che questa posizione fosse dettata dalla fedeltà alla tradizione e dal desiderio di differenziarsi in modo chiaro dai riformatori, piuttosto che da una consapevole individuazione della via da seguirsi in un momento di accelerazione delle trasformazioni sociali e culturali. Certo è che quel processo di individualizzazione che si fa faticosamente strada nel 6-700 e che farà deprecare a Beccaria le conseguenze deteriori dell'aver considerato piuttosto la società come un'unione di famiglie che come un'unione di uomini, vede un solido punto di partenza nella decisione tridentina. Non importa se la conferma della teoria consensuale è accompagnata nel dettato conciliare dall'esortazione ai figli a mostrarsi sottomessi ai genitori. Il matrimonio contratto senza consenso paterno doveva essere abbastanza diffuso nel 600. Sede Luca rileva la disparità tra le leggi civili e le leggi canoniche in relazione alle giovani maritatesi senza l'assenso dei genitori. Dopo aver deprecato nel dottor Volgare come, cito, cosa troppo dura, anzi pregiudiziale alla Repubblica, e di mal esempio e di pessime conseguenze, che debba essere lecito ad una zitella maritarsi a suo capriccio senza saputa e consenso del padre, De Luca dichiara che il padre è tenuto per legge canonica, ma non per quella civile, a dotare la figlia che si è sposata senza suo consenso. Cito ancora: quest'obbligo del padre cessa, secondo la stessa legge civile, quando la figlia si marita senza suo consenso, ma ciò, come si è detto, non cammina oggidì per la legge canonica, in maniera che quando la figlia, non essendo provvista altronde, si marita degnamente, può, ciò nonostante, dimandare la dote al padre. Se clericalizzazione e sacralizzazione del matrimonio fungono da agenti propulsori del processo di disciplinamento sociale e si iscrivono nel più ampio quadro della modernità, nel periodo post-tridentino si manifestano e si sviluppano forze centrifughe che tendono a sottrarre alla Chiesa il pieno controllo dell'istituto matrimoniale e ad opporsi alla sua completa razionalizzazione. Ciò è dovuto in gran parte ad alcuni problemi lasciati aperti dall'assise conciliare, tanto sul piano della dottrina quanto su quello della disciplina. Non si potrà che accennare a questi problemi, del resto molto studiati da altri. Alla rivendicazione della propria competenza nelle cause matrimoniali, nel controllo degli impedimenti e nell'elargizione delle dispense, la Chiesa tridentina non aveva accompagnato una riflessione teorica sul diritto che da secoli esercitava in questa materia. Una prima trattazione sistematica di questo problema spetta a Bellarmino, che, individuando tre aspetti che riguardano le cause matrimoniali, riconosce in alcuni casi una competenza dei magistrati secolari. Nelle cause matrimoniali alcune cose sono del tutto politiche, come de dotibus, de successionibus, de hereditatibus. Altre sono esclusivamente spirituali, come de partibus sacramenti, de benedizione sacerdotalis. Altre ancora sono parte politiche e parte spirituali, come de gradibus cognationis, de divorcis, de impedimentis et talis. Il primo tipo di cause spetta al magistrato politico, il secondo alla Chiesa, il terzo a entrambe, ma con subordinazione del magistrato alla Chiesa. Infatti, egli distingue nel contratto matrimoniale una duplice valenza: quatenus enim contractus ille naturalis est, materia est politica, quatenus idem contractus est fundamentum sacramenti et res conscientiae spiritualis est. Ma la subordinazione del magistrato politico alla Chiesa è motivata da almeno tre ragioni e innanzitutto dal tipo particolare di contratto matrimoniale inseparabile dal sacramento. Bellarmino è esplicito sull'inseparabilità, cosa che appunto, come abbiamo visto, non era del Concilio. Matrimonium est sacramentum est ecclesiae sacramentum, neque apud Christianos separatur contractus legitimus matrimonii a sacramento matrimoni. Cum omnis legitimus contractus matrimoni, hoc ipso sit sacramentum matrimoni. Ergo, iudicare, an aliquis contractus matrimonis sit legitimus, est iudicare, an ille contractus sit sacramentum. Sed de sacramentis iudicare ad ecclesiam spectat, igitur et de tali contractu iudicare ad ecclesiam spectat. L'autorità di Bellarmino, che ribadisce la dottrina della inseparabilità di contratto e sacramento, non colma il varco lasciato aperto dal dibattito tridentino. In effetti questo è il nodo teorico su cui si svilupperanno le dottrine dei regalisti e dei giurisdizionalisti, che terranno accesa la conflittualità di Stato e Chiesa sul diritto di giurisdizione nelle cause matrimoniali. È vero che il fondamento delle dottrine giurisdizionaliste, basato sulla considerazione che il contratto è un substrato necessario del sacramento, è ricercato nei principi dei teologi e dei giuristi riformati. Per questi il matrimonio non è sacramento, né conferisce la grazia, ma, come si esprime Marcantonio de Dominis, è un contratto totus humanus et corporalis, et ad effectum corporalem directenitus. Tuttavia, l'Assemblea Tridentina aveva rivelato al proprio interno una propensione non minoritaria a scindere e regolare per via di legge il contratto matrimoniale, partendo dal principio, come ho detto prima, che non tutti i matrimoni sono sacramenti. Un secondo elemento che si opponeva al processo di razionalizzazione e disciplinamento del matrimonio della Chiesa Tridentina era l'istituto degli sponsali. Le mancate promesse fornivano abbondante materia per le cause matrimoniali e costituivano anche oggetto privilegiato dei casuisti, intenti a mettere in luce le discrepanze che si aprivano tra foro interno e foro esterno nei giudizi dei singoli casi. Citerò brevemente un passo del Navarro. Dopo aver ricordato che gli sponsali non sono indivisibili come il matrimonio, enumero i motivi per cui gli sponsalizi possono sciogliersi. Gli sposi possono liberarsi reciprocamente dalla promessa, primo caso. Uno di loro può entrare in religione, secondo caso. Uno di loro può accasarsi con un altro per verba de presenti, anche senza copula, o per verba de futuro con copula e affezione maritale. E appunto il conflitto fra foro interno e foro esterno consiste in questo. Abbiamo detto affezione maritale, perché senza questa non si separerebbero i primi sponsalizi quanto a Dio, cioè tra foro interno non si separerebbero, perché benché sì quanto alla Chiesa. Potrei continuare, ma penso sia sufficiente questo esempio per mostrare come la sopravvivenza dell'istituto degli sponsali dovesse costituire ostacolo alla definizione di un istituto matrimoniale controllabile e socialmente disciplinato. Del resto non cessa neppure completamente il fenomeno dei matrimoni clandestini, più difficili da realizzare, date le sanzioni tridentine, e trasformati in matrimoni repentini come quelli descritti da Manzoni. Dunque, espressione di un costume fortemente radicato nella società, in cui tendono a permanere i rapporti di forza che si oppongono al processo di individualizzazione della famiglia. Lascerei qui un brevissimo paragrafo sulla donna che si inseriva pienamente nella discussione fatta prima molto abbondantemente. Io ho concluso. Ecco, un altro pezzo molto importante è stato portato con questa relazione. Ho notato come anche cose estremamente note come queste possono essere nuove se viste appunto con occhi nuovi. Ecco, io penso proprio che siamo adesso in grado di leggere in modo nuovo, come ha dimostrato la Lella, anche questi punti centrali che da secoli sono oggetto di discussione. Ora discutiamo anche noi. No, io volevo dire una cosa in questa occasione perché è una riflessione, insomma, che volevo fare anche in occasione di altre lezioni, ed è una riflessione che è confermata fortemente, ancora più in questo caso, in questa splendida relazione della professoressa Zara. Intanto mi pare che adesso ci vorrebbe proprio una seconda puntata di questa, su questo tema di tipo iconografico letterario, perché se la Zara ci potesse proiettare la enorme raccolta di fondi, icone, insomma, sullo sposalizio mistico, da una parte avremmo un'evidenza, insomma, stupenda di questo, dell'aspetto della sacralizzazione, e dall'altra parte sarebbe altrettanto bello che lei ci parlasse, ci illustrasse invece l'aspetto disciplinante di questo processo, insomma, che attraversa l'istituto matrimoniale, parlandoci, illustrandoci appunto le vicende manzoniane, no? Credo che questo sarebbe proprio molto bello da fare, ecco. A me ha interessato molto appunto questa forte tensione che tu, Lella, hai illustrato tra il momento appunto di sacralizzazione e quello di disciplinamento. Mi pare di capire, ma ripeto, io sono completamente digiuno di queste cose, che sia il paradosso, questa parola non so se si può usare, ma io la userei, insomma, il paradosso che sta sotto e sorregge, se si può dire così, che un paradosso sorregga qualcosa, la vicenda del Concilio di Trento e della sua modernità. Ecco, questo direi che è un punto molto importante. A me pare di capire che, insomma, in fondo l'obiettivo primario dei padri non potesse essere quello primario, dico, che è quello della sacralizzazione, di tutto quello che gli capitava sott'occhio, sotto mano, no? Che questo è lo scopo, credo, per cui il concilio viene fatto, e questo è il principio ispiratore dei lavori. E tuttavia, ogni volta noi siamo costretti ad ammettere che le vie, la via attraverso cui i padri procedono alla riconquista sacralizzante di territori perduti, è una via di razionalizzazione, di disciplina, forse meglio dire, no? Perché usavano questa parola, in politiam et in mores, no? Come è venuto fuori, adesso non mi ricordo, mi pare, dalla relazione di Mazzone. In disciplina et in mores è il titolo, è il sottotitolo, è il nachtitel, non so, che io darei a questo convegno, se, a questo seminario. È un effetto voluto, è più uno strumento che viene usato forse per raggiungere il primo scopo, ma paradossalmente è l'effetto che a noi oggi colpisce di più e rispetto al quale noi oggi misuriamo questo eventuale risultato di modernità che il Concilio ha portato fino a noi. Qui sta il paradosso. Ed è un bel paradosso, ma forse bisogna interrogarsi anche sul motivo, cioè sul meccanismo, ecco, di questo paradosso. Come ha potuto funzionare, se ha funzionato così come dico io, nella mia ignoranza, questo paradosso? E oggi questa cosa, secondo me, a me è parsa più chiara che nelle altre relazioni che ho sentito, purtroppo non tutte, più chiara anche che nella bellissima relazione di Prosperi. Credo che, e forse il matrimonio si presta di più a questo, credo che il meccanismo che dà senso a questo paradosso e lo rende fruttuoso in termini di modernità stia nell'inevitabile accentuazione della responsabilità individuale, per così dire, che, a cui i padri hanno sempre dovuto, insomma, fare ricorso. Nello spazio esistente tra l'obiettivo, il fine di sacralizzazione e lo strumento, il mezzo di disciplina, in questo spazio si fa sempre più, prende sempre più corpo, perché già ce l'ha, a prescindere dalla Chiesa e a prescindere dallo Stato anche, prende sempre più corpo la presenza dell'uomo come individuo nella sua azione, nella sua capacità di azione, perché questo è un problema che viene anche trattato in questi decenni, anche in campo giuridico, per esempio, quello della capacità d'azione e quindi quello della sottolineatura del momento di partecipazione, di presenza, no? Dell'individuo. Non interessa ancora tanto a me in questo momento l'aspetto della coscienza, di cui pure si è parlato molto nel corso di questo seminario. Mi sembra che questo elemento sia poi l'elemento, questo dell'individuo e della sua responsabilità e della sua capacità d'azione, che, come dire, troverà le maggiori possibilità di espansione e di affermazione una volta che, a partire da questi anni qui, a partire dal 600, a partire dall'età moderna, insomma, consolidata, il fine della sacralizzazione è destinato a perdere, il fine della disciplina, lo strumento della disciplina si istituzionalizza sempre di più in norme, in istituzioni precise, e così mi pare si afferma in maniera non scollegabile, non distaccabile da eventi come sono anche quelli del Concilio di Trento, la modernità, che allora alla fine, così proprio chiuderei questa stupidata insomma che ho detto, alla fine mi parrebbe che, per tornare a quel piccolo intervento che avevo fatto il primo giorno, mi parrebbe che insomma il problema della modernità, del divenire della modernità, è un problema che riguarda più i mezzi che i fini, riguarda più i mezzi che i fini, e questo ci salva secondo me anche per il futuro, anche per una futura modernità. I fini restano salvi, cioè restano responsabilità nostra, La modernità, che è un dato più oggettivo, riguarda gli strumenti. E allora io sarei appunto la modernità riguarda l'aspetto tecnico, insomma, ecco. Sarei appunto per tentare di proporre anche una storiografia più attenta alla dimensione tecnica dei problemi, proprio perché tutto sommato lì si possono anche guadagnare magari dei passi nuovi, non so. Sono Wendland di Potsdam. Volevo chiedere una cosa. Visto che il suo intervento era preannunciato sotto il titolo Il matrimonio e la donna, ecco, volevo chiedere, lei ha trattato, credo, in modo molto completo le basi legali, tutto il livello giuridico che riguarda il matrimonio, come veniva trattato al Concilio di Trento. Ecco, ora mi interesserebbe se ha fatto anche uno sguardo magari sulla trattatistica che aveva a che fare col ruolo della donna nel matrimonio. C'era qualcosa del genere? Era conosciuto in questo tempo ai vescovi che partecipavano al Concilio? Io ringrazio solo. Quello che ha detto, insomma, credo che sia un contributo a tutto il convegno, non al mio in particolare. E ti ringrazio per avere richiamato il mio interesse per il matrimonio mistico, ma che non c'entra qua, e quindi non direi di parlarne. Invece, per quello che riguarda la trattatistica sul matrimonio, è interessante appunto che, almeno a livello italiano, che è quello che io conosco meglio, esiste sì una trattatistica specifica pretridentina, ma non molto abbondante e direi così abbastanza legata ai doveri coniugali, al peccato, cioè non è una trattatistica che in qualche modo riguardi il ruolo della donna, dell'uomo, della famiglia, mentre invece si sviluppa appunto immediatamente dopo il concilio una letteratura specifica sulla famiglia, all'interno dei quali abbiamo specificato il ruolo di donne e uomini. Ora, oltre a quei testi che vengono chiamati di economica cristiana, sono soprattutto due i testi italiani che hanno importanza nel periodo immediatamente conciliare, che quindi possiamo considerare un po' come la traduzione delle istanze del concilio. Sono il testo di Silvio Antoniano, l'educazione cristiana dei figlioli, dove c'è tutta una parte relativa al matrimonio e anche ai compiti della madre in educazione dei figli, e poi il trattato di Agostino Valliere dedicato agli stati di vita femminile, fra cui anche lo stato matrimoniale. Allora, in questo caso specifico abbiamo una trattatistica che riguarda anche la donna. Però non si sviluppa in Italia una trattatistica di tipo, per esempio la trattatistica inglese o mi pare anche tedesca, proprio relativamente ai compiti delle donne. Non ci sono libri per donne che riguardino, insomma, i libri che riguardino esplicitamente i compiti della donna nella famiglia, nel matrimonio, nei figli. C'è una trattatistica di tipo più generale, prima la trattatistica di vita coniugale. Sì. Sì, credo di sì, cioè appunto è diversa questa trattatistica rispetto ad altri paesi, la trattatistica italiana. Professor Ganzi. Nur ganz kurz, das würde ich nun einen Fall ansehen, wo wirklich das Konzil im Sinne des Nebeneffektes, wie der Herr Reinhardt es formuliert hat, sozial disziplinierend für die Zukunft gewirkt hat. Denn das Hauptargument ist ja, l'argomento, questo è un effetto, di secondo, sì, sì, di secondo, perché l'intenzione del Concilio era di avere il controllo, no? Del matrimonio, e è interessante che Leinitz, il generale, ha fatto un grande trattato che io pubblico, farà l'edizione agli atti del Concilio di Trento, contro questa intenzione del Concilio, perché lui ha detto no, la Chiesa non può proibire il clandestino matrimonio, sì. Perché questo è il consenso, no? Il consenso è indipendente dell'autorità. Invece, dall'altra parte, specialmente sul punto di vista del primato del Papa, il Leinitz era un papalista maggiore, no? Ha fatto un grande trattato, un grande discorso sul primato del Papa, e primo piano lui considera la giurisdizione, e questo è interessante, che in questo caso lui prende una posizione diversa anche dai curialisti sotto il punto di vista della situazione. La Chiesa non può proibire il matrimonio clandestino, no? Questo è interessante, perché non si può dire i padri del concilio, ma anche qui si deve differenziare tra le diverse posizioni, no? Sì, la ringrazio molto, questo sì. Avevo sì, presente sì. La posizione di Leinitz, appunto, come ma sono stata affrettata nell'esporre, la ringrazio. No, voglio dire che appunto, come lui ha detto, Leinitz è uno dei massimi esponenti della... Sì. No, vabbè, ma non è una cosa importante. Chiudiamola. Possibile chiedere se si può, anche in sede così analitica e così veramente presentata in modo estremamente valido e stupendo per me, ci può essere, si può fare distinzione tra sacramentalizzazione e sacralizzazione del matrimonio in ambito di Concilio di Trento? Perché a mio avviso sono due cose molto, molto diverse, voglio dire, ma anche molto interessanti, perché di sacralizzazione del matrimonio ne parla anche Lutero nel 1529, E quindi questo era assodato per il mondo protestante anche. Per il mondo cattolico, il Concilio di Trento voglio dire, viene fuori la sacramentalizzazione per la quale non ci deve essere una condizione fondamentale, cioè quella che poi si può chiamare la causa formalis, cioè la fede, il non porre alcun ostacolo obicem, che significa cioè avere fede in quello che sta avvenendo e quindi avere fede dogmatica, come dicono i teologi. Ecco, non so se questo può essere convalidato dalla relatrice. Sì, per inciso, questo anche nel dialogo odierno si parla di una certa sacramentalità anche in ambito protestante oggi, ma queste sono cose contemporanee. Invece andiamo al matrimonio mistico, che per me è estremamente interessante, come anche in un certo ambiente protestante, questo lo dico perché per avere anche un conforto di come le cose poi sono molto più complesse di quanto forse pensiamo, il matrimonio mistico ne parla anche Zinzendorf nel Settecento, quando propone l'uomo come vicario di Gesù Cristo con la sua sposa. Ecco, quindi fa la funzione di Mardocheo che protegge la donna nel suo compito che deve portare avanti. Ecco, questa poi avveniva per estrazione, quindi si sceglieva la donna per estrazione, non per una scelta personale. Questo è estremamente anche interessante. Grazie. Sì, se ho capito bene il senso dell'intervento, ovviamente è vero, non è che la sacralizzazione del matrimonio sia legato solo alla sacramentalizzazione. Sono d'accordo che anche naturalmente nelle chiese riformate il cerimoniale è una forma di sacralizzazione del matrimonio, però appunto io volevo insistere sulla coincidenza in Chiesa Cattolica del fatto che ci sia questa coincidenza tra sacralizzazione solenne del matrimonio e riconferma appunto della validità sacramentale. Ma insomma, a me quello che pare importante è che di fatto il matrimonio si celebri a questo punto in chiesa con quel tipo di cerimonia, cosa che non si faceva prima, no? E questa è la sacralizzazione della coppia. Dunque, io no, volevo aggiungere una cosa io, invece appunto non ho parlato, dato il taglio della relazione, anche invece di tutti gli studi recenti che riguardano soprattutto gli aspetti più concreti, sociali del matrimonio, in modo particolare quelli che sono stati fatti anche in Italia sulla base della casistica delle cause matrimoniali. Però, essendo qui Daniela Lombardi, che è una delle massime studiose di questi problemi, la pregherei di integrare questa parte della mia, di integrare con la discussione, con il suo intervento, questa parte della relazione. La provocazione è accolta oppure? Siamo sempre con il senso volontario, ecco, non intendiamo ritornare ad una situazione. Ah sì, sì, no, d'accordo, ma insomma volevo dire, mi dispiaceva non avere toccato questa parte del problema, ma ci sei tu. La parte è un po' vasta, quindi non, sì. Non è il caso ora di, perché non è che abbiamo il tempo, no, è una parte molto vasta ed è una parte in più, è una parte in più, un discorso altro, ed è bene che sia anche altro, no? Nel senso che è bene anche distinguere il piano teologico, il piano giuridico, che è fondamentale all'interno del dibattito tridentino, da poi quelle che sono le realizzazioni, come poi effettivamente viene applicato questo decreto Tamezzi. Però le ricerche che sono state fatte finora sono veramente poche, sì, purtroppo, su questi aspetti, perché ovviamente l'esame delle cause matrimoniali è un esame lungo e faticoso, e sono pochi che finora hanno cominciato a fare dei sondaggi. C'è la Lucia Ferrante per Bologna, Oscar Di Simplicio ha fatto un grosso lavoro per Siena, io mi sto occupando un po' di Firenze, e comunque quello che è importante, che rende le cose ancora più difficili, è che ci sono notevoli differenze tra una realtà e l'altra, differenze intanto anche proprio differenze procedurali nei processi matrimoniali, che quindi complica anche ulteriormente la comparazione, che secondo me è invece una cosa alla quale dovremmo cercare di arrivare, perché l'importante è capire poi come, cioè quali sono le istanze che vengono dal basso, da chi si rivolge ai tribunali, e poi come i giudici rispondono a queste istanze, come decidono sulla base appunto di queste domande. Ecco, quindi per far questo ovviamente c'è da tener conto delle procedure, perché non sono uguali dappertutto, soprattutto da tener conto del ruolo dei procuratori, degli avvocati, che ovviamente fanno sì che le strategie difensive siano anche condizionate proprio da un linguaggio giuridico, che è importante, e c'è questa mediazione è importante anche nel rapporto appunto tra utenti e tribunali, che fa sì che, secondo me, quello che emerge poi soprattutto dai processi matrimoniali sono delle strategie difensive, è l'uso che della legge, l'uso che dei decreti tridentini si fa, più che veramente i comportamenti matrimoniali. Ecco, questa è un'altra cosa poi appunto molto delicata, un terreno molto delicato, insomma non credo che noi possiamo pretendere di vedere poi davvero che cosa pensassero del legame matrimoniale, della sacralità e della sacramentalità del legame matrimoniale. Noi vediamo invece che cosa cercano di ottenere ricorrendo al giudice, come cercano di risolvere i conflitti coniugali che emergono. Ecco, una cosa sulla quale insisterei è il fatto dell'importanza degli sponsali. Quello che emerge da molti di questi processi matrimoniali è il fatto che i conflitti tendono a concentrarsi ora, dopo il tridentino, tendono a concentrarsi sul momento degli sponsali, mentre le cause per validità e invalidità del matrimonio tendono nettamente a diminuire già negli ultimi decenni del Cinquecento, perché appunto questa regolamentazione viene fuori, questo controllo si applica effettivamente, è efficace, perché sono chiare le norme, non si può tanto discutere. Ecco, invece sugli sponsali, su cui Trento non si era pronunciato, lì invece c'è tutta un grosso dibattito, una grossa conflittualità appunto sul terreno della prassi giudiziaria, e anche poi tutto un dibattito anche tra giuristi, canonisti e teologi fino a tutto il Settecento. Cioè mi sembra che poi la necessità del controllo si sposti appunto sul tema degli sponsali, tanto che il cardinale Lambertini nel Settecento proporrà, a metà Settecento, proporrà di regolamentare l'istituto degli sponsali, obbligando facendo sì che sia redatto il momento, insomma, dello scambio della promessa, deve essere redatto in forma scritta e deve essere sottoposto al consenso dei genitori. Questa è una proposta che poi non viene ovviamente applicata, però che segna bene come di nuovo, come ancora riemergono quei temi, quei problemi che erano stati discussi al Concilio di Trento: il problema della pubblicità, il problema del consenso dei genitori. Ti ringrazio molto. Un'integrazione. Le ricerche sulle cause matrimoniali sono tra le cose più interessanti, sì, appunto, che si stanno facendo. Io spero che prossimamente ci sia la possibilità anche di parlare. Sì. Ah no, no, io ritenevo questo una necessaria integrazione a quello che io avevo detto, e appunto, dato il taglio che io avevo assunto, non avevo potuto menzionare questi studi recenti italiani, che sono fra le cose più nuove e interessanti, e quindi ricordarsi i nomi: Lombardi, Ferrari, Ferrante. La professoressa Fubini. Io volevo soltanto aggiungere alcune cose, siccome abbiamo parlato di fini e di mezzi, appunto a proposito del matrimonio tridentino, forse anche di mezzi nell'applicazione del matrimonio tridentino usati dalla Chiesa, ma contemporaneamente anche dallo Stato, alleato in questo della Chiesa per la riorganizzazione in qualche maniera e il controllo della società, proprio perché il matrimonio viene ad essere questa sorta di nucleo importantissimo da cui per lo Stato si definiscono le legittimazioni sia in fatto di prole che in fatto di cariche occupate all'interno della società. E allora uno degli strumenti che ho studiato è quello delle doti di carità, cioè esistono moltissime doti di carità, in particolare mi riferisco a quelle istituite dai Granduchi di Toscana, che vengono assegnate soltanto dopo che sia stato celebrato il matrimonio con formula tridentina. Siamo nel 1596 e gli statuti fanno riferimento precisamente alla formula tridentina, ad indicare che tale formula non è ancora sufficientemente diffusa e che appunto non si pagherà la dote in cambio se non in questi casi. Questo è tanto più importante perché per doti distribuite ugualmente per carità nel secolo precedente il formulario era completamente diverso. E due parole ancora a proposito di quella domanda sulla trattatistica delle donne sposate e sul loro comportamento. Io mi sono occupata in modo specifico, collaborando a un volume curato dalla professoressa Zarri, di Antoniano e di Valier. Diciamo che si tratta della messa a punto, non particolarmente esplicita, ma della messa a punto dei ruoli di responsabilità della donna all'interno del rapporto di coppia e nella cura dei figli. Una responsabilità che dà un ruolo fondamentale alla donna all'interno della casa, distinguendosi quindi questa trattatistica dai manuali quattrocenteschi che curavano soltanto i rapporti coniugali e più precisamente quelli sessuali, in fondo, o tutt'al più prescrivevano come la donna dovesse in qualche modo occuparsi delle masserizie e di poco altro. E adesso non sto a dilungarmi su questo, comunque spero che se ne possa parlare poi quando esce il volume. Grazie, io ringrazio molto Maria Fubini sia per l'integrazione alla mia risposta di prima relativamente alla parte dei trattati, sia per aver presentato un altro degli aspetti importanti relativi appunto alle donne al matrimonio, cioè il problema della dote e di tutte le istituzioni che vengono appunto fondate soprattutto in epoca post-tridentina. Però appunto ti ringrazio perché non sapevo di questa formula di dotazione soltanto se dopo una celebrazione, quindi credo che sia un altro tema in più che si può collegare a questa mia relazione fitta di buchi dal punto di vista della società. No, è veramente interessante. Io mi correggo un istante con l'intervento di Schiera di prima, che Schiera ha la capacità di suscitarmi dei pensieri che non siano giusti, no, ma è 15 anni che lui mi mi fa pensare ogni suo intervento, quindi anche in questo. Cioè, lui sottolineava questo aspetto del privato, ecco, ma dell'individuo voglio dire, insomma, ecco. Ma l'individuo mi pare che qui venga esaltato proprio nella misura in cui nasce il pubblico, e qui c'è questo parallelo tra Stato e Chiesa, ecco, ego coniungo vox di matrimonio è in qualche modo l'affermazione di un'autorità estranea all'individuo, insomma. Cioè l'individuo in senso moderno nasce nella misura in cui viene costruito questo, e questo cammino parallelo, credo io, insomma. Cioè, e questo si associa poi con il fatto che questa discussione sulla riforma del matrimonio nel Concilio di Trento, come la Zari ci ha detto, è un matrimonio che viene ad esaltare la legge positiva, insomma, cioè, è una cosa stupenda, cioè, che la Chiesa dice, beh, noi non discutiamo, erano validi i matrimoni clandestini, la Chiesa li ha sempre guardati con sospetto, insomma, adesso stabiliamo così. Cioè, è una cosa, insomma, questi due elementi, insomma, ecco, da una parte il pubblico, ecco, e dall'altra la legge positiva, sono elementi veramente estremamente importanti di questo processo, che possiamo, ad ogni modo, di questo coinvolgimento nella modernità, ecco, diciamo. Io credo che in questi secoli qui proprio le controversie poi giurisdizionali tra Chiesa e Stato sull'istituto matrimoniale, che hanno caratterizzato tutta l'epoca successiva, hanno fatto dimenticare proprio questa comune, in qualche modo, questa partenza allacciata, insomma, ecco, che cambia proprio, no, lo statuto matrimoniale e lo statuto della famiglia, insomma. Forse adesso siamo davvero in grado di vedere le cose in modo anche nuovo, nella misura in cui, voglio dire, quasi quasi il discorso sul divorzio, eccetera, diventa secondario di fronte a un discorso che investe tutto l'istituto familiare nella sua complessità. Insomma, cioè, il nostro ripensamento storico, per ricondurci al tema iniziale del convegno, credo che ci permette di vedere cose nuove, nel senso anche che questa rivalità è finita nel momento in cui viene messa in discussione questa radice dell'istituto, insomma, ecco, che ha dominato tutti questi secoli, al di là della rivalità nella giurisdizione rispetto appunto agli... Voce al microfono. Non ho niente di importante a dire. Sono d'accordo su questo. Credo appunto che sia stata una grande trasformazione quella dell'istituto matrimoniale, proprio in base all'intervento sempre più deciso del diritto, della legge, cioè che la Chiesa, il fatto della trasformazione da matrimonio consensuale a solenne è una trasformazione radicale, cioè è veramente l'intervento della Chiesa nel matrimonio. Istituzionale è anche lì l'intervento della Chiesa, del ministro, eccetera. Ma no, dai, basta. Sì, sì, il processo è analogo, voglio dire, anche nei paesi protestanti, attraverso proprio questo, se anche non c'è più la sacramentalità, però la disciplina del matrimonio è molto forte, appunto, se in Inghilterra. Le regolamentazioni sono abbastanza analoghe poi a quelle... Si variano i sistemi di giurisdizione, eccetera, eccetera, però... Sì, la regolamentazione è molto simile. La direzione è la stessa, sì. Il cammino in fondo è... Ci sono le leggi ecclesiastiche del 52 che sembrano anticipare quelle tridentine, insomma. Anzi, appunto, c'è una certa anticipazione. Sì, facciamo solo una recensione dei futuri interventi, perché poi adesso dobbiamo chiudere il dibattito. Chi vuole intervenire ancora... Allora, se vuole intervenire brevemente. Grazie. Credo che sarebbe interessante chiarire un po' meglio i destinatari del Concilio. Non è il protestantesimo, perché era ancora da nascere in certo senso. E in secondo luogo, prospettare, credo, la consistenza delle premesse. La grandezza di Iedin sta, a mio giudizio, nella grande scoperta del rinnovamento pretridentino, che non è stato adeguatamente, ulteriormente approfondito e sviluppato. Il quinto lateranense è un elemento chiave. Quando si fa questioni di uomo e donna, non credo che sia la questione del Concilio. La questione del Concilio è la persona umana. Ora, nella cultura europea la spersonalizzazione dell'uomo è avvenuta per opera dell'averoismo. Per il principio di lotta all'averoismo è stato enunciato da San Tommaso, ma la maturazione storica del superamento dell'averoismo è avvenuto nella cultura di fine 400 e precisamente in modo macroscopico nell'Università di Padova, cosicché il quinto lateranense ha potuto recepire, approdare direi, niente meno che alla sinolicità dell'essere, è vero? E giungere perciò alla esaltazione dell'uomo, della natura spirituale dell'uomo e dell'uomo come essere persona. E contemporaneamente al quinto lateranense abbiamo il programma di Giustiniani e Quirini, che ci dà una pagina di interpersonalismo stupenda. Credo che due punti, due momenti massimi di questa storia della prima metà del Cinquecento, il 1515 e il 1551, che fortunatamente sono già ricordati, diremmo quasi in Dante, no? Sono momenti in che noi stiamo vivendo oggi, che non hanno potuto essere vissuti completamente allora, vero? E quindi credo che varrebbe la spesa oggi, visto che noi li viviamo, valorizzarli ulteriormente. Scusi. Grazie.